niente, pensiamo che almeno uno me lo dasse, pensiamo che mi desse almeno il coso, non il citizen ma l'altro sector, che mettesse la batteria, me lo dava, detto, se vuoi te lo faccio così, ti metto la batteria senza guarnizione, no, l'ho detto lascia, o lo facciamo bene il lavoro oppure non lo facciamo per niente. Oh no, sta di fare il coso della guarnizione, che c'è senza guarnizione, ma stai scherzando? È nuovo nuovo quello orologio, non c'ha un graffio, niente, è proprio perfetto. Poi c'è una cipolla anche, ma non li uso, era di mio padre. L'avevo regalata al compleanno a mio padre, papà mi ha detto, oh già, ce l'ho già l'orologio, cosa ne faccio della cipolla? Tienila tu. E me la sono tenuta io, capito? Però non la uso, dico la verità. Ed è elettronica, c'era tutto quanto in argento, eccetera. Io c'ho Lorenz, costava all'epoca 250 euro. E Lorenz era una marca conosciuta prima, adesso magari è un po' tramontata, ma quello lì, il Philip Watch, era buono. Adesso sono tutti quanti col coso, ma come ti si chiama, l'orologio da 22.000 euro. Tu quelli più voci la giù cutare un muro e la giù ribasso, il Rolex, ma quelli che hanno soldi già si ribidano, e poi da chi che hanno arrestato, fa via champagne, orologi di marca, Rolex, di tutto e di più. Vabbè, però non gli avrei mai spesi tanti soldi nei telefoni, negli orologi. Ah, io il Philip Watch l'ho tirato al muro della lavatrice, c'era vicino al laboratorio, perché cazzo, come uscivo dall'orologiaio si fermava. Considera che comunque già e da lui era una resistenza nei bari, si vira via Brizzi su coso, te lo ricordi quello di Usini, Luigi? Aveva aperto, le aveva cambiato questo componente e l'aveva fatto funzionare bene. Cazzo, avevi pagato una vacca di Napoli per un Philip Watch. Ciao Natalia, sì, lo so, sono orologi che se quando vanno bene, poi quando vai a aggiustarli spendi una marca di soldi per aggiustarli. Io quello quel sector in via Marra pagavo 80 euro per fare la prova dell'acqua e cambiare la batteria, 80 euro ti cambiavano una guarnizione fino a fine, facevo la prova dell'acqua per vedere se perdeva, 80 euro ogni volta, e allora basta, sono andato in quest'altra orologeria del corso che fanno la stessa cosa e mi prendono di meno, capito? Natali, ma sta uscendo questo apparecchio omologato, 1, 2, 3? Chi è sta uscendo bene? Che ne va? Eia! La pagava! Che è avanti? Ciao, Manuè! Bene, mi ascolti, con questo apparecchio omologato, che ne va, sì, meno male. Eia! Ciao, Manuele, ciao, ben sentito, dai, buonasera. Oggi lo sento male a Manuele io. Ciao Manuele, se mi ascolti. Però c'è la radio bassa. E a te ti stanno soframodulando il televisore. Ma se bene Manuele, davvero. Grazie, andiamo bene, andiamo. Io sempre bene ti ascolto Manuele. Ricordati domenica per andare lì, che lì le trovi. Solo che come ti vai a Regattina se da compare? Ma perché in Italia non si può entrare? No, a coso, è in Piazza d'Italia, mi sa. Viene Umberto magari si viene meglio, anche più su, a livello di Piazza d'Italia, se, ma quando ci sono queste cose vanno in Piazza d'Italia, invece più me di niente. Io guarda, so che anche a Cagliari le fanno. Ho un amico che ci va, perché prima vabbè aveva un negozio dove vendeva queste robe qua, adesso però gli è rimasta la passione, ci va ogni tanto a comprare roba, addirittura ci ha comprato un macchinario per sviluppare le fotografie in bianco e nero, che cosa, la marca di soldi gli hanno fatto pagare una fesseria a 20 euro, mi pare che l'ha pagato, dice quando me l'ha dato in mano, cavolo, stavo per saltare di gioia. E chi è che fa questi lavori, Manuel? Ah, li fa, diciamo, non per lavoro, ma per hobby, là. Cappa, cappa. E come adesso è sistemato, tutto attorno alla stanza, così. Ah. Ah, poi vabbè, se c'è il posto già va bene, dai. C'è la passione. Meglio un video che sento malare di Zaghiso. Avanti, fra. Quelle. Ma noi, ma che te ne fai di sta roba vicchia? Andiamo. Ah, vabbè, se fai colazione va bene, dai. Io ne avevo uno telefono che ce l'ho buttato. Con i giradischi e tutto. Sa che me ne faccio di questa roba, ui. E vabbè, va noi. Ma noi, dillo a Roberto Quadrato, ne ha un baby di quelle radio. Cazza. A lui le piacciono molto, ha la passione proprio. Ma non penso che le dia, lui va proprio a comprarle apposta, capito? Quelle lì, amplificatori, un po' di tutto, Roberto ha passioni, ma molte passioni. A me mi piacciono quegli amplificatori Marantz, quelli che avevano gli strumenti grandi, quelli lì mi piacciono. Quegli amplificatori così, come ce l'aveva mio cognato, ce l'ha tuttora. Ce l'ha portato in campagna, ci ha fatto l'impianto in campagna. E quando vanno in campagna a fare feste, tipo Capodanno, roba così, attaccano stereo e ballano, capito? Lui ci aveva l'amplificatore Marantz, il piatto Technis, le casse Pioneer, no, non erano Pioneer, le casse erano Zendar, mi pare, Zendar, di quelle un bel grandi, da 200 watt, roba così. E aveva fatto un bel impianto a pizzi, così, capito? Aveva fatto un bel impianto, si sente un bel forte. Ma penso che siano di quelli comuni, non è che siano finali particolari, sono finali che si trovano anche per altre cose, quindi penso di sì. Ma lui aveva problemi con la testina, doveva cambiare la puntina del giradischi, e poi l'ha trovata. Ha trovato quella la punta di diamante che aveva, capito? Io te l'ho detto, c'ho un'arburesa, ma è bella manna, quella lì non la uso mai. E poi c'è una patatesa, me l'ha presa mia moglie che serviva lì, e dammela, se l'ha portata via. Però era un po' più piccola, capito? L'arburesa l'ho pagata 180 euro. Bella, è di arborea, invece che se ne ripassate di arborea, è fatta, è più panzuta, rimane, però con una punta allucinante. Natalino, Natalino sarà Magnetti. Ma cosa? Sono qui e vi ascolto. Facendo le orecchie di porco. E vabbè, è così, è fatto così. A Manuele stasera non lo ascolto. Pare che stava chiamando, ma sicuramente non l'ascolti, non arriva lì Natalì. Arrivava sempre. Non lo so cosa ha fatto, magari ha ascoltato di nuovo l'antenna. E ti ascolto più basso, Manuele, come mai? Io per Manuele non ho mai avuto problemi, l'ho sentito anche a carica. Passaggio. Sì, io sì. Io ti sento anche forte. Va Manuè. Ma non lo so, non c'è il radio. Se è la radio da me è fortissima, come è possibile? Così da un tiro di schioppo, due volte. Però qua già arrivava, adesso non arriva più. Anche Franco è vicino, se per questo. Franco è a due passi da me. A me non mi sta arrivando stasera. No, non puoi fare la felicità. E sempre arrivava cosa, Emanuele qua. Poco fa lo sentivo più forte, però non c'aveva la radio, capito? Non c'era radio. Magari ci ha cambiato l'apparato ed esce più basso quello. Non so che dire. Vedo qua adesso. Va bene, Emanuele. Sì, non fa massa adesso, non fa bene la massa l'antenna. Pacca, adesso ti ascolto. Anche io l'ho ascoltato adesso. Sì, adesso la cari. Sì, adesso già ti ho ascoltato. Sì, che non fa massa per la PL, perché adesso è andata la massa l'antenna. Tu prendi la mola, raschia la cucina e ci metti la magnetica. Certo raschia la cucina. Dalle retta Franco. No, ma se devo uscire a casa, se ti non ha puntato io butta. No, di una retta, Manuele, che quel Franco è un cuocuo, Manemi. Prendi un pezzo di filo, un pezzo di massa e lo attacchi alla vite della cucina, a quelle che vite autoprezzate che ci sono sul pannello di dietro. E vai, Franco, ti metto la portante. Tu parla bene, eh. Ah, se no, va a parlare con un muro. Ui. Io gli avrei fatto mangiare un brodino di mamma a questo Salviglio. Bene, Salviglio. E te, mi ha piaciuto il palazzino al volo, mi. Oh, yeah. Adesso lo metto la portante. A Sergio canta, a Sanchi mi ha truncato in due, mi. Oggi va giù già pure il Cristo. Davvero sì, adesso vengo e ti trocco l'interno. Vieni a truccarmi l'interno, vieni che ti faccio mangiare il brodino di mamma. E io ti faccio la pizza di piombo. Come sto uscendo, davvero mi, sono a lavoro, come sto uscendo? Mi stai facendo bene, io ti ascolto bene. Quando arrivo il segnale, Natalia. Prova. Guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, Franco California, guarda anche tu quando arrivo su in quelle zone alte, in quelle terre, cambio. 9:20 qua. Già va bene, allora ce la mettiamo allora. Franco, da te come arrivo, vai su. 9:10, salve, che zona sei? E più o meno siamo lì a Pascoli qua, dai. Apparivi bene, dai, a me bene mi ascolti. Da Puglia, io sono con una 38, mi importa. È una base magnifica, dai. 9:20 da qua, da questa parte. Tante volte sono meglio queste cose. C'era uno della Midland che vendevano, che si staccava il pezzo di sopra, di sotto, e si attaccava l'antenna, cosa, rimaneva a metà l'apparato. Poi per usarlo come porta ti riattaccava il pezzo di sotto, che era la batteria. Quello andava bene lo stesso. Ma io ne ho uno di portatile, ne ho uno della Intec che va benissimo. Solo che va a batterie, che se consuma troppo, io lo usavo quando portavo il cane giù, ma lo portavo appresso, che magari c'era un QSO che avevamo iniziato, non lo volevo rompere il QSO, e allora se portavo l'apparecchio giù, capito? Ma esce però, esce anche forte. Ho parlato con il portatore dal portatile, col gomino, con Tigre di Portatore sto parlando. Scappa dai. Sì. No, ma già va bene. La verità è che non posso dare il controllo di segnale, non è che ne puoi dare con questo. Però, no, vabbè, si attacca un attirino di gomma da qua, boh, magari mi senti passo passo a casa tua, ma non mi senti così, ma non è più 20. Vabbè, ma questo Intec che c'ho lo stesso è un bel buono, che si sente un bel forte. Solo che consuma un bel di batterie, cazzo, non so come fare. Dovrei trovare il modo per... Sì, ci sono quelle batterie che prendi a tracolla, vanno c'è la baccalina e dopo pesano. Questo è bello perché c'ha sia il suo poco batterie che interno per quando lo usi col gommino in strada, e più c'ha l'attacco laterale a 12 volte, c'ha due attacchi, uno è l'attacco per ricaricare le batterie e l'altro è l'attacco per alimentarlo per usarlo in macchina, capito? O in casa. Però non mi hanno fornito il cavo, capito? Il cavo non ce l'ho. Sì, ma è un attimo costruirlo, ce l'ha l'attacco per la 12 volte? Sì. Allora è un attimo, vado a prendere lo spinotto, la fusaro e un cavetto e si fa. E lo faccio con la cinicida e tutto. Ci vogliono solo saldo un attimo. Sì, già lo so fare anch'io, una mandrunia. Ma quando io lo porto giù, che devo portare il cane, non mi posso portare il cavo elettrico, lo chiamo in bozza. E io lo porto giù e quindi scendo con le batterie te le consuma in un paio di modulate, ti consuma le batterie. No, ti devi prendi quelle ricaricabili, ogni volta le attacchi a caricare quando risali a casa. Fai una spesa, ma fai bene. L'ho già fatto, le ho prese da 2005 addirittura. Quelle ricaricabili non valgono nulla, non durano nulla quelle batterie, sono peggio delle altre. Vuol dire magari che le hai prese un po' malorde, se ne prendi buone già durano. Vabbè, sempre dipende da quanto trasmetti, ma non pensare che ti facciano, non ti possono fare una giornata, ti fanno 2-3 ore, capito? Ehi, trasmettevo, mi rilanciavano quando ero col cane in giro, mi rilanciavano, io parlavo dalla strada dove ci siamo trovati noi, però più giù, laggiù si arriva a su, perché poi facevo tutto il giro da via Prati, scendevo di nuovo al Ponticello e poi andavo via Moris, quindi facevo tutto il giro e mi sentivano sempre. Capo, bianco a due, riprendi Natali. Siamo qui, io sto per fare qualcosa da mangiare, dai. Che devo mangiare alle 7, ci sentiamo alle prossime, io e via, ciao Natale, ci sentiamo, avanti Fra. Bravo Califano, ci sei ancora? E ogni tanto sparisce, sta andando a farsi un altro caffè. E cos'è, poca roba oggi? Salvi? No, mi ho preparato la linea, ancora non siamo operativi, il forno è pronto alle 7, capito? Ci siamo quasi. Ecco, ma come ti cominci non voli più? Beh, mi sono messo giù un botto, sono uscito pure, fumo una sigaretta e ne sto approfittando a pigiare la portante, tanto ce l'ho a fianco la pistola la macchina, capito? Ah, ho capito. Ciao, va bene, dai. Almeno ti fa compagnia. Da qua. Chi c'è? Natalino, Franco, poi non c'è nessun altro. C'è l'Antonio Bombolo, non so che fine ha fatto, tanto sì sì. È andato anche lui in cucina, ha detto che preparava da mangiare, stasera è un po' morta, di solito entra un sacco di gente, ma stasera è un po' così. Qua sta mutinando, non lo so da voi. No, dentro casa no, io sono dentro casa, per cui non vedo nulla, sono sdraiato. E mi sto rilassando un pochettino la gamba perché ho fatto un po' di ginnastica. E capo, vabbè, se è mutina dentro casa è un problema, e vuol dire che non sta più Giulia. Natalino Alfa 1, ti metto la portante. Oh, una terribile mi sembra mania. Ma che ne sono, Savino? Saverio. 18.45, dice il mio orologio. Ehi, è presto ancora, È molto presto. E capo, sì. Domani mi misuro in stazionario a vedere, ma secondo me è tarata, perché è possibile, se no sarebbe uscito così. Beh, provalo, lo fai sul 20, sull'1 e sul 40, e si è a posto. Poi ce ne sto a rimediare un giocattolino da mettere sotto. Ma io ti consiglio anche un apparecchio che può avere il microfono, in modo che tu, se devi modulare, tiri, non devi stare con su cose in mano. Questa è una cosa volante, però la vita... Sono rimasto contento, dai. Sì, va bene. Io avevo un portatile che usciva bene lo stesso. Era quello SOS, ce l'ho presente. Quelli quadrati in plastica della Intec. Quello usciva un bel forte. Infatti la capsula l'ho usata per un altro microfono. Quando si è sfasciato mi ho preso la capsula e me l'ho messo in un altro microfono per dire usciva un forte. Antonio, sì. Franco, California... Califano se n'è andato. Gianni, avanti. Buonasera, come mi sente? Ti sento bene. Chi sei, Marco? No, sono Gianni. Ciao, chi sei, Natalino? No, c'è Saverio dalla macchina. Dove stai andando, Carlo? Al lavoro? No, adesso sto facendo una commissione. Al lavoro uscire alle 8 perché ho turno di notte. Gappa. No, c'è Saverio, non so se l'ascolti, prova a vedere, Saverio. Ciao Carlo, buonasera, ben sentito, sperando che mi ascolti. Qua io col portatile, base magnifica, lavoro. Sì Saverio, già ti sento, sono in via degli astronauti in macchina. Ti ho sentito, buonasera. Ti sento un po' basso, ma ti sento e ti capisco. Vai Gianni. Via dai. No, ma Saverio c'ha un'antenna che è molto performante. Adesso io mi devo prendere la sigla di quell'antenna, Saverio. Se la trovo, mi la pongo, perché va bene e non è molto alta. Sì, lo sai cosa c'ha di vantaggio? Che, guarda, non... stamattina era in fretta, quando ci rivediamo, quando la prendi in mano rimani scioccato. Una piuma è già. E vuol dire molto, perché quella tua, essendo pesante, se tu cammini troppo, tende a attaccarci la base, capito? Invece questa, essendo leggera, non si muovi. Sì, quello si flette di più. Caspita, ha un'antenna, Saverio, con Carlo, che va benissimo, va bene, però da tutte le parti lo sì. E che antenna sta usando San Vedio? È un'antenna di altri tempi, roba di magazzino. Antenna, come si chiama? Non c'ha una marca, c'ha una sigla. Oh, già ce l'ha la marca, comunque non c'è su Amazon, c'è anche la Zipputi, la stava cercando ieri, non mi viene, Uri. Ieri avevamo la cercata, l'ha trovata, capito, non costa neanche molto, costa poco. E guarda, io sono in zona via Pascoli, sto utilizzando un portatile, c'ho 3 watt, fatti il conto e mi senti di lì a luna e sole. Franco, stai dicendo. Via Franco, mi senti a luna e sole con 3 watt, fai il conto Carlo, a te la parola. L'hai sentito? Carlo? Sì, dimmi Gianni. L'hai sentita Salvidio? L'ho sentito male in quel passaggio, perché adesso sono in via, cos'è quella? Via Oriani, in basso. E adesso anch'io ti sento basso, ogni tanto sparisci poi ritorni, ma ti tiro fuori lo stesso, anche in via Oriani. C'ho un'ultima ricezione. Gianni, mi hai sentito? Sì, ti ho sentito, Carlo, che sei in via Oriani e lo senti. Anche lui ha detto che ti senti a sbalzi, però ti sente lo stesso, che la sua antenna ha un'ultima ricezione, così ha detto. Ok, KK, meglio così, Saverio. Adesso ti ho sentito leggermente meglio, beh, se sei in discesa in via Oriani, capito, cosa ci pretende, io qua sono imbottigliato in mezzo ai palazzi, qua già va bene, dai. Un attimo, riprendi già che vado a guardare se il forno sta salendo bene di temperatura, se no riputo anche 2 tetti di legna. Carlo, dove sei diretto? Guarda, adesso sono davanti alla Banca d'Italia, i vigili del fuoco, dai. Sì, ho capito dove, alla fine di via di Umberto. Esatto, sto andando in via, cos'è quella? All'incrocio via Ledante e via Cataluchino. Ah, stai scendendo verso giù? Sì, esatto. E devo fare una commissione e poi rientro a casa, mi preparo veloce, mangerò qualcosa e alle 8, 3, 1, 4 esco per andare a lavorare. C'ho il turno di notte, finisco domani mattina alle 5. KK, così presto, mamma mia. Qui ti devi mettere in viaggio a quell'ora, ui. Cosa vuoi fare? Ieri notte ho finito alle 4, perché ieri avevo un turno particolare, avremmo dovuto finire all'1, invece c'erano dei lavori, capito, e li stavano facendo di notte, ho dovuto aspettare finché non hanno terminato i lavori, e sono rientrato alle 4:30 del mattino a casa. Cavolo, 2 notti di seguito ti fanno fare, boh. Lo so, no, ma era notturno e straordinario pure, perché praticamente io avrei dovuto finire all'1, capito? E invece ho fatto altre 3 ore in più. Un attimo, dico Rix che c'è il telefono escluso. Ehi, vabbè, tanto io sto per scendere, ci sentiamo dopo, dai, tanto scendo 5 minuti e poi riprendo. Ehi, io sono andato a vedere come era il forno. Carlo, mi senti? Sono rientrato. E chi è? Avanti. Ma non è il controllo. Ehi, c'è l'HPC. Tonino. Ciao, Tonino Cavaggià. Salvio, sono. Ciao, Salvio. Come sto facendo? Bene, io ti ascolto bene, io sono qua in pizzeria. Capito, non ci sono problemi, sperando che mi ascolti tutti. Chi c'è ruota? A voi che ti ascolto. Io sono sempre col portatile con un'antenna magnetica. Sapa la capota. C'è Gianni che è con Rix, c'è Carlo che è salito un attimo a casa di NBM. Cappa, che sta cercando di entrare, avanti. Voi là, ciao. Ciao tu. Io sto provando un'altra questione di apparato. Va bene, Sant'Enna, voglio sollevare altre 3 metri, se va bene. Che è piazzata lei tu lì? Cappa. La ringo? No, la ringo no. C'è un'altra antenna. La parroggero. E che antenna è messa? Tu un'antenna 58 donna, tutta qua. Mi è arrivata stamattina, mi è arrivata e sto provando. A voglia ci porti. Qua io sono in pizzeria, vedo i palazzi, ti ascolto forte e chiaro. Passo fortissimo. Passo con Felice, e poi se ne metto un preamplificato ancora meglio. Mette tutto! Chi è sotto Carlo? Carlo, non è Carlo. Ma perché c'era Carlo in DM, poco fa, come lo sento passo, ho capito chi è. Ma non è da Carlo. Ciao Tonino, buonasera. Ciao Gian, come ti sta arrivando che sto provando la questione? Sono col 3009 Tonino, prova. 1, 2, 3, prova di modulazione, microfono normale. Fondo scala, sì. Che antenna stai usando? Perché sicuramente cambia antenna. internet tempo fa, quando chissà se mi arriva, chissà se mi arriva, stamattina mi è arrivata. Ma nuova l'hai trovata? Appa. E costo, molto costo. Questa mi ha lasciato a 150. Ma mi posso la pena che sei un bel forte di geniale, no? Che non so come ti arrivo io, ma sei fortissimo a stare fanno. Io vi saluto. Grazie a te. Sullo stesso non scherzi, eh. Tu qua mi stai arrivando a quasi 9.30. 9.25, dai. Ha molta ricezione questa antenna. Aspetta che c'è Salvedio che sta salutando. Ciao Salvedio, buon trabacco, dai. Io saluto da tutti, dai, che cominciamo a fare pizzette. Torino, quando arrivo io a Tocutiaca, che sono in BM e pizzeria. Ma perché pizzette a taglio fate, Salvedio? 3.5, perfetta. Comunque, buona pizzata, eh. Andavè, dai. Buon proseguo, ragazzi, buon proseguo di qua c'è. Ci sentiamo a presto. Saremo a lunga, faccio ancora di causa trabacco. Ecco, ci sentiamo sul video, avanti Gianni. Ehi, salve, ma le pizze al taglio ho fatte? No, ragazzi, volto una linea così, rotante, non lo possiamo fare, se non occupiamo lo spazio per le pizze normali, da piatto, capito? Ah, ecco, capito, andate bene. Avanti, Bombolino. Zaffa, che segna segnare che va? Se metto qualche spintarella allora guai. Sto dicendo che c'è una bella differenza di un bel po' di DB, Sto dicendo, guarda, immagino che c'è un baracchino, non è più nemmeno. È stazionarie? Già, da te è cambiato il segnale. A me mi arrivava in forte già da prima, Vittoni, non è che posso dirti niente. Arrivi bene, arrivavi bene prima, arrivi bene adesso, non c'è, io non noto una differenza perché più di 9.30 il mio Smith non segna, se avessi avuto 9.40, 9.60 come c'era il Kenwood, allora sì. E quindi, ma Antonio non nota la differenza, avanti a tu. Vabbè che è salito pure io di un po', c'è una bella differenza, c'è. Cioè. Antonio, piano piano, sei andato di arrivare al cielo. Gianni, dovevo essere che ci facciamo sentire da tutti quanti. Gappa, ma il palo alzato là, Ettore, ho lasciato la stessa misura. Ma il tempo non me la prometteva, capito? Fate fretta quando ha calmato un po' e mette quell'antenna e boh, basta, poi. Adesso, quando domani non dovrebbe c'è piove. Se non piove, guarda, sollevo altre 3 metri, 4, boh, non lo so. Ma qua c'è un bel forte, comunque. Va benissimo, va bene, va bene. Allora, Tony, quell'antenna lì c'ha il difetto che si riempie d'acqua dove c'è la piastra, dove ci sono i radiali. Devi metterci vulcanizzante, ben vulcanizzata lì, perché ha quel difetto lì. E io ci ho messo una spalmata di silicone che scivola l'acqua, non preoccuparti. Va bene. Silicone, vabbè, io gli ho messo sempre vulcanizzante, poi sopra il nastro e andava bene così, si induriva, poi non entrava più via. Brecchio. Avanti Brecchio. Okay. Buonasera, Alfa 21, riserva questa parte, buonasera a tutti. Ciao Riccardino. Ciao Riccardo, buonasera, mi senti questa volta? Certo, ma che due hai alzato? Sì, un pochino. Riccardo, senti Antonio, buonasera. Ciao già, buonasera. No, non lo sento bene perché sento più propagazione sotto e quindi non riesco a riceverlo. Cosa va per la sorda? Io ti ricevo perfettamente bene. Ehi, non è sorda, no, Antonio. E tu che in quella zona lì non arrivi e basta. Quando c'è un'antenna performante vedrai che ci arrivi. Lo sento benissimo io, come ti spiega questa cosa. Riccardi, e io bene ti arrivo con diversa antenna. Sì dai, già arrivi sempre bene. Forse il segnale mi è sembrato forse un po' più basso, però la radio sì, già va bene lo stesso. Cavolo, proprio il basso, andare blu blu. Senti, ci godi, no Gianni, puzzinoso? No, ma hai sbagliato sicuramente. Cazzo, mi ci ho pensato, ho lasciato un bubù. A me pare che il modo d'ora che salta l'antenna. Ha messo la matto fattorino, ha messo la matto fa 5 con Riccardo. Matto va turbo? Ah, la turbo. All'inizio, prima, quando avevo iniziato, la stavo cercando anch'io quella, però non ne trovavo e alla fine ne ero messo un altro. Io invece ho messo la LEM, che è come la Mantova 1, uguale identica. Ho capito, no, io infatti all'inizio stavo cercando tipo Mantova 1, Mantova 5, però ne trovavo, avevo chiamato, mi ero fatto un giro di chiamate una mattina, ma non ne aveva più nessuno, soprattutto nuove non se ne trovavano, magari ne trovavi qualcuna vecchia, ma era più messa male, quindi alla fine era proprio questa. Oh già, via. Ma la situazione mia è diversa da quella prima più forte, ti ricordi? Adesso c'è dopo un altro apparato. K. Sì, l'ho notato, Tonino. L'ho notato che diversa, ma è sempre forte, non è che sia da buttare. Questo qui che apparato è? Questo è sempre quello CM800, che non ha più preso cos'è. E già va bene anche questo qua. Non è da buttare, dai. Già va bene. Ci aveva fatto ridere perché è più basso. Più là, si può chiare di Bruttiluso. Insomma, tu mi hai chiamato al telefono? No, sinceramente no, perché era molto indaffarato. Ma se ne sono alzato, mi hanno fatto fare la fatica di alzarmi e dopo maneggiare il telefono. Oh. 3 ore squillando. Tu perché non hai risposto subito? Perché ero coricato, Tony. Sì, ma tu eri coricato, ma quelli che ti hanno chiamato non sapevano che tu eri coricato. Avrò pensato, questo è assente. Ho fatto, siccome stamattina ho dovuto fare delle commissioni, non ho fatto ginnastica, quindi me la sono fatta stasera, fisioterapia, capito? Ed ero bello stanco, i muscoli belli caldi, però un po' doloranti, a furia di fare ginnastica, e quindi mi sono sdraiato. Avanti, Riccardino, riprendi tu, puoi fare il giro per Antonio. Ho capito. E anche io mi è sembrato da poco, sono andato in palestra in questo periodo, e quindi niente, quindi ho fatto i compiti e adesso sono entrato. Non ti fanno male i muscoli dopo che fai palestra? Sì, bene, alcune volte sì, un po' si abitui, adesso un po' meno, le prime volte è difficile. Ecco, magari non fai esercizi pesanti, dai. Quell'X per me che sono ammazzo al telefono. Riprendi Antonio, ciao, a dopo. Eia, avanti Antonio, riprendi tu dai, Antonio, non riprende. Riprendi tu dai. E quindi stai andando anche in palestra, ricordi, quante volte vai la settimana? Adesso, prima all'inizio ci stavo andando 2 volte, stavo andando tipo il lunedì e il venerdì, adesso ci vado 3 volte, stavo andando di solito lunedì, mercoledì e venerdì, e se capita, magari, non lo so, se tempo libero ci vado in sabato pomeriggio. Sì, vabbè. Sì, devi prenderlo come uno sport, non come un lavoro, perché sennò poi diventa pesante. Ma io mi sto facendo un po' di fisioterapia perché mi hanno operato la gamba e quindi per riattivare bene i muscoli sto facendo io la fisioterapia, tanto so gli esercizi che bisogna fare, poi con internet ti seguo, prima settimana, seconda settimana, ti dico tutti gli esercizi che devi fare, quindi me li sto facendo io, sto già camminando bene, tranquillo. Diciamo c'è qualche imperfezione, nel senso che quando mi alzo dal letto devo fare più fatica, perché i muscoli ancora non sono sviluppati come si deve, dai. Sono un po', prima erano proprio flusci, si vedeva con tutti i piedi di pieghette, di cose, come mi hanno operato, purtroppo mi hanno dovuto tagliare il muscolo per arrivare all'osso, quindi si deve riattivare, dai. Cavolo, non lo sapevo, comunque dai, buono, se sono miglioramenti. Così, no, infatti io adesso, vabbè, già la settimana mi lavoro alla palestra, ci preparano più o meno dopo scuola, alla fine, quindi quando è che bisogna mettere a fare, che magari il giorno dopo si verifica, non si va, o vado magari il giorno dopo ancora, se non sono impegnato. Beh, infatti la devi prendere prima il dovere per il piacere, dai, la devi prendere come una cosa secondaria, dai. No, infatti questo matto già sto facendo così, dai, un po' perché non sapevo più che cosa fare, quindi alla fine, perché ho cambiato tanti sport, ho detto poi babbo mi ha fatto la giovane di palestra, quindi mi ha detto che mi poteva anche un po' seguire magari a casa, quindi ho detto approvo e già mi piace. E così erano i miei figli. Mia figlia all'inizio ha cominciato con il nuoto, poi con la danza, poi con quello, poi con l'altro. Insomma, da una cosa all'altra, perché a quell'età lì si vuole provare un po' tutto e poi si fa una scelta precisa, capito? Poi addirittura ha lasciato gli sport e è andata a scuola di canto e adesso canta anche, canta nelle feste, eccetera, però vabbè, si è laureata, sta lavorando e tutto quanto, però come hobby c'è il canto, capito? Ho capito, no, vabbè, infatti quello sì, come hobby, da cazzo come hobby, nuoto ci hai mai pensato, Riccardi? Nuoto ci ho pensato un po' fa quando era alle medie, però un po' aveva all'inizio la paura di spingere, poi così alla fine non ci sono mai andato, quindi alla fine ho fatto o basket 2 anni, poi ho fatto scherma e quindi così. Vabbè, si prova tutto, dai. Invece Marco, mio figlio, karate, judo, insomma tutti questi sport qui li ha provati e poi alla fine andava a fare nuoto, poi gli amici si sono ritirati, lui non gli piaceva più perché dice io ci andavo perché c'erano i miei amici, mi divertivo, ci facevamo le gare e cose, adesso non ci sono più gli amici miei, non ci faccio più nulla, non mi piace più. Ho capito, e anche io l'avevo fatto un periodo karate, però poi l'avevo fatto per un periodo, però poi alla fine tipo tra gli spostamenti per fare le gare non avevo tutto il tempo, quindi alla fine l'avevo mollato, però magari era pure bello, lo continuavo. Sì, serve anche per la formazione del fisico, fare sport, c'è poco da fare. Il nuoto è lo sport più completo che esista, facendo nuoto tutti i muscoli li fai lavorare bene. Io ho un nipote che è arrivato secondo nei campionati italiani di nuoto, è molto bravo, è velocissimo, però si regola anche col mangiare, non mangia più di tanto, capito? La domenica magari si abbuffa, però poi tutta la settimana si tiene sempre al regime, capito? Perché deve stare magro. Ho capito, no, io non ci avevo pensato, però poi vabbè, molto neanche fatto per me, perché poi così al mare, però poi niente di più, comunque anche per la palestra, cioè alla fine più o meno stavo pensando di tenere una specie di dieta per magari per il resto, vediamo, perché intanto mi sa che cambierò palestra, perché questa palestra di oggi quando abbiamo una ventina di persone sembra che ce ne siano sempre una cinquantina, perché per occupare macchinari, vabbè, ma tu tieni conto che sei in fase di crescita e che la dieta vuole bilanciata, perché a quell'età lì c'ha bisogno di tutti i nutrienti, anche in altra età, però in quell'età lì specificatamente c'ha bisogno di tutti i nutrienti, quindi devi fare una dieta bilanciata, dai. Ho capito, infatti non lo so, infatti io era proprio per dire che cosa, comunque prima rispetto a questa prima ci andavo a mangiare di più, poi adesso si sta molto limitando perché lo pensavo, però infatti vabbè, la pizza piace a tutti e quella a casa non manca mai, noi ce la mangiamo anche 2 o 3 volte alla settimana, ci piace troppo. O il quello, le pizzette al taglio, la fainei, a volte non è voglia di cucinare la sera e mangi queste cose, che sono bucarini magari, non lo fanno tanto bene, ma diciamo che sono molto più salutari di tanti altri cibi che vogliono mettere la farina di grillo in mezzo al pane, non mangerò più pane. Ho capito che ho sentito, adesso sono pensando di questo, che è una cavalletta, poi la farina di grillo, no, comunque sì, ogni volta con una cavalletta già va bene, perché infatti io mangio qualche volta il sabato e poi non so, magari in giorno di settimana, però capita poche volte, però quando è già non la resisto. Poi io le ho mangiate ieri le pizzette al taglio, ma così buone, croccanti sotto casa, le fa buonissime mia moglie, la pizzeria la croccante, li voglio fare anche pubblicità perché se lo merita, se le fa troppo buone, vabbè, vediamo un po' se è arrivato Tonino, se è ancora al telefono. Tonino, ci sì. Sono Carlo. Carlo, avanti. E io sto rientrando a casa. Sempre Vincenzo a Magna. E allora? E almeno virtualmente, poi non si può fare davvero, mangiare troppo, che si evita. Vabbè, c'è Riccardino, non so se lo occupi. Avanti Riccardo, fai un passaggio, vediamo se ti sento. Ciao, buonasera, ben sentito, vediamo se mi senti adesso questo baracchino, a parte che adesso sto andando a spalmare perché l'altro giorno ho dovuto staccare quello a tavolo che non, alcuni non mi sentivano, infatti mi stacco, riattacco. Sì, che ti ho sentito Riccardo. Io adesso sto salendo in via Carlo Felice, dove c'è la Gonzaga, ti sentivo bene, non so da dove stia modulando tu, vai Riccardo. Ah beh, dai, fa piacere, sto modulando la zona alta, Filigheddu, sì, allora io sono in macchina adesso, ma da casa ti dovrei sentire ancora meglio, dai, perché io abito tra via Luna e Sole e via degli Astronauti, per cui lì Filigheddu ce l'ho a porta d'occhio. Ah sì, no, vabbè, tutto sommato io già più o meno già mi faccio ascoltare tutte le parti, un po' coperto nella zona, eri tipo ieri, facciale così, però tutto sommato meno male che arrivo più o meno a tutte le parti. Ehi, AK positivo. Chi è rimasto Gianni? C'era anche Tonino? Ma è andato al telefono, dai, Tonino ha piazzato l'antenna nuova adesso, c'ha la Mantova Turbo. Ma l'ha piazzata a casa sua? K, sì, l'ha piazzata lì, l'ha comprata nuova, l'ha trovata nuova. Caspita, come ha fatto a trovarla? Perché mi sa che non la fanno più. Qualche avanzo di magazzino era. Ne hanno veduta un po', l'ha pagata a 150 euro. Maledizione, ce la fanno pagare, sì. Vabbè, comunque già sono antenne buone, glielo ho detto di isolarla bene perché c'ha quel difetto che si arrugginisce la piastra dove attacca il piede lì. Lì o ci mette grasso o qualcosa del genere. No, ha messo silicone. Allora ben isolata. Scappa. Sì, perché ha quel difetto quell'antenna. È l'unica invece la Mantova 5 quel difetto non ce l'aveva. Si arrugginiva, sì, ma acqua non entrava, capito? Ho capito. Per me adesso piazza le segni, sto rientrando verso casa. Ti ascolto benissimo. Benissimo Carlo. C'ho l'antenna quella più grande, capito? Antenove della Midland. Scappa. Quella di Savino è bellina l'antenna, è trasparente con la carica che si vede la carica diciamo dall'esterno, no? Involucro è tutto trasparente. Ah, ho capito, sì, ma mi sembra di averle viste magari su qualche sito navigando. Esteticamente sono anche belline, non so quanto sia lunga quella, ma non dovrebbe essere neanche troppo lunga, vero già? No, è come l'altra tua, è lunga così, sono 1,50 m, praticamente è un'antenna riuscita perché esce bene da tutte le parti, io dove sono andato l'ho sempre sentito bene, io ero in macchina, lui era in macchina, lo sentivo sempre. È un'antenna ben riuscita, lui vabbè l'ha buscata, era un avanzo di magazzino di un vecchio CB eccetera eccetera, però gli hanno dato anche il portatile, lui sta uscendo col portatile con quell'antenna alla macchina. Sì, lo sentivo anch'io prima. Mi sa che ha chiuso adesso, vero? Sì, è entrato in pizzeria, lui lavora in pizzeria, capito? Ah, cappa. Avanti Riccardo. Ci sono. Comunque mi sa che è un attimo, andiamo a dare da mangiare i cavalli che si devono mangiare e poi se riesco rientro dopo, se c'è ancora qualcuno. Quante ne avete adesso cavalli, Riccardo? 5 sono adesso. Cavolo, si sta aumentando la famiglia. Una ha partorito, vabbè, da un po', ha partorito 6, 5, 6 mesi la figlia, però già è grande, già si è fatta grande, già, adesso deve ancora crescere. Ma come sono tutte maculate come c'aveva piccate lunghe così, oppure diversa data? No, non c'erano più di quel tipo, adesso sono tutti uno, poi marroni con la bianca sulla fronte, sulla davanti e poi un'altra che si chiama Immaculata, che è bianca e marrone, la tutta piatta. Cappa. Che razza sono? Anglo-arabo sardi? No, sono tutti spagnoli, tranne uno che è una velinese, cioè sono tutti spagnoli pure, un altro che è una velinese e basta, sono tutti così. E poi una, solo una è americana. Cappa. Vabbè, se ti piacciono questi animali, a me piacciono lo stesso i cavalli, piacciono molto. Cappa, vai, allora, poi siamo qua, dai, non c'è problema. Avanti, Carlo. Sì, Riccardo, quando vuoi, siamo qua. Complimenti se c'è i cavalli, belle bestie. Sì, Riccardo, c'è il ranch. Evidentemente hanno lo spazio là, a Frigheto e tutta la zona di campagna, sicuramente avranno un bel po' di spazio. Sì, sì, sì. Poi li ha sempre avuti, ne aveva uno come quello di pipì calze lunghe, ce l'hai presente, tutto maculato, bianco e nero. Sì, solitamente quelli sono un po' mischiati, dai, come razza. In America, negli Stati Uniti ce ne sono tutti quelli. Ecco, il padre è appassionato di roba americana, c'è anche con le macchine americane grandi, bello, è veramente bello. Ho capito già, devo scendere, ci sentiamo se ci siete dopo perché sono sotto casa adesso, sto scendendo. Va bene, dai, ci sentiamo Carlo, dai, vai a mangiare, preparati, poi magari se c'è gente rimango, se no me ne sto andando e cosa faccio solo. Va bene Gianni, a dopo, ciao. Ciao, ciao, buon lavoro se non ci sentiamo. Eia, grazie. C'è rimasto qualcuno sul 10? Hola, chico! Mi ammena. Grande. Eccomi. Carlo, ci sei? No, Carlo praticamente doveva mangiare, mettersi la divisa e partire. Alle 8 parte, dai, che ore sono? Ecco. 8 meno 4. Alle 8 parte Tonino, quello là lì sempre parte. Niente. Dai, per fare così almeno li facciamo compagnia sino a quando arriva al lavoro. Quindi stasera è fatto tutto da solo. C'è bisogno di, mi funziona bene le gambe, le mani, quindi già sono leggermente meglio, dai. Ho già fatto la visita al medico legale e sto a posto. Con la parte centrale funziona così. Tu, quello sempre. Cazzo, Antonio, il pazzo. Dai, maledetto, tira ancora di più. Su che andiamo, su, su che andiamo. Tonino, ti volevo dire, mio collega, è tutto bloccato con la strada per andare a casa tua. Ma ci stanno lavorando, sì. Sì, non ho capito cosa cacchio stanno facendo. Hanno rotto, stamattina stava piovendo. Molto picco, la mola, un casino, giusto, ma che cazzo. Sì, hanno tutto rotto, non ho capito se stava frenando e stava cercando di aggiustare. Per me sta frenando, quel pezzo ogni tanto ne scende tutto, ne scende. Perché sotto è vuoto sicuramente, ogni tanto, beh come che stamattina hanno fatto tutto il giro al contrario, dunque per quello stavamo tardando. Anzi già. Ehi, perché su quella zona fai anche con il cane? No, i miei colleghi fanno porta a porta, me l'avevo detto stamattina. Stavamo tardando a fare il giro e così via. Sui cantieri è arrivato che ci sono i CPS, qualcuno ha chiamato, no? Come è stato così, gli abbiamo detto e gli hanno spiegato il motivo, tutto qua. Non lo sa che siamo sotto controllo già. Cappa, cappa. No, no, pensavo che facessi anche quella zona. Lì fate porta a porta, fate quella zona lì. Allora porta a porta, sì, no, io sono già 10 giorni nella zona mia fissa, c'avevo prima, al centro storico, passo locale, già 2 settimane buone so. Perché ci sono ragazzi nuovi, abbiamo un capocentro che è un capiccion tubo e sta mettendo questi ragazzi, capito? Non so dove metterli. dove sbattere, diciamo, tutto qua. Avanti, Gesù. E va, fra poco di una depressione, ci troveranno un posto, almeno per uno. Venire lungo, dipende dal capocento, se fa la cosa giusta, no? Allora, ci avevamo due capocenti, due persone, uno è stato battuto all'ecocentro del mondo, l'altro è battuto all'altro capocentro, è arrivato uno di continente che è più tonto dell'altro, un altro di Sassari, era di Sassari, tonto, è un tonto, poi io ricordo, cioè 25 anni non capisce un tubo, proprio fa solo casino sta facendo e basta, ancora il comune è zitto, il comune è zitto, non dice nulla, capito? Qualcuno sicuramente ogni tanto esce per rispondere alla vergetta, va lì Tony. Non è cazzo. Praticamente io per andare a casa devo fare tutto il giro, sì. E mentre per uscire esco normale, dalla casa normale, troppo casino. Non mi si passava vicino a tua sorella, se non sbaglio, no? Gaffa, infatti il semaforo l'ho messo prima del cancello di casa. Figurati, vabbè, speriamo, ogni tanto, spesso fra, se fanno lavori alla rame del freo, mi sembra il ponte nuovo, ogni tanto manutenzione, fanno lavoro nel freo, fa la posta, capito? Almeno ogni anno fanno la manutenzione. Avanti a tu, Antonio, niente, avanti Gianni. E adesso la manutenzione a Ponte Rosello, hanno diviso le corsie, eccetera, a Ponte Rosello. Stamattina sono passato e ho visto che stavano facendo manutenzione. Stavano chiudendo la strada, se non sbaglio, e l'avevo andato sul giornale. E vabbè, ci vuole, ogni tanto ci vuole, almeno quello. E non dico, la manutenzione del Ponte Nuovo, sai cos'è? A fare tipo saponetta, capito? Tipo saponetta, noi le carrozzine lavorano. Avanti Tony. E quelli che sono attorno al telefono. Sì. Vediamo se Carlo è pronto per uscire a lavorare. Carlo? Ancora non è uscito. Mari, il fatto è questo, che praticamente lì bisogna camminare un bel piano, specialmente quando piove, perché se no si paradura. E tu qui frighi, guai, sei fregato, eh. A me mi è capitato, mia figlia ha 36 anni, è già grande, 37 anni, una piccola, ci ho toccato il freno e gli ha iniziato a sbandare, guai, mi sono bloccato in tempo, guarda. Noi ogni tanto ce ne sono 6-4 macchine a Rumbazzi, capito? E una saponetta con la strada. La gente prende, corre, sorpassa e così via, capito? Perché c'è sia la discesa che la curva. Praticamente scendendo c'è la discesa che la curva e voglia uscirci, capito? Se tu stai camminando troppo e vai a frenare, la macchina di battineggia, c'è poco da fare. Poi con quella, le prime piogge specialmente, che tolgono quel sapone, mamma mia, che si ti fa sbandare, allucinante, una cosa allucinante quanto fa sbandare quel sapone. Tipo con la curva che c'è stata me di Pisa per andare verso la chiesa, no? Passando la via Solari e giri per andare verso la chiesa, c'è una curva che secondo me come stai girando ti buttano da parte. Io una volta, io parlo tanti anni fa, c'era un autotreno, c'era frigo pieno di pesce, tutti si è girato, si è aperto il portone, c'erano tutte le case di pesci fuori, gambe e pulpi, le vedi macchine ferme raccogliendo, figurati. Vabbè, poveraccio, lo dovevano aiutare, là. Quando è così è brutto, là, perché ci prendi anche la merce, è un casino, si deve bagare tutto da buio. È un casino, lo so. Purtroppo i curmai ci sono da tutte le parti, i curvi, che approfittano. Mi ricordo dell'esplosione di via Cesare Battisti, la gente che si prendeva loro dell'oruficeria che c'era e tutta la roba che era brincata con l'esplosione, invece pensare alla gente che c'era dentro chiusa. E appunto, ora faccio aiutare gente randagia. Io piace lo studio che devo camminare la notte, devo camminare con le... ogni tanto mi devo girare, ma c'è una forbice in tasca. Anche la sera, più giù di dove sono io, una ragazza, la stavo cercando per violentare, è una ragazza di 20 anni. che con la ragazza c'è il bar, sempre nel corso, c'era un ricolore, l'ha inseguita fino al lavoro, perché non si è un bel cazzo mezzo alle gambe, non lo voglio considerare, sempre un ricolore, questi randaggi, i cioccolatini, Antonio rientra, Antonio rientra, avanti tu lì. Tornino al telefono. Lì non si può più passare, io sono passato in macchina tutto canto pieno di insigniti, molta gente se n'è scappata perché rubavano anche la biancheria dagli stenditoi, le mogli stendevano i pantaloni, i vestiti e così, li rubavano tutto. Sono randaggi, sono già, sono dei randaggi, io non mai sono alla parte, io sto alla parte da Via Duomo a salire verso Via Arboleda, ma mio collega che fa da Piazza Mazzucci è in giù, per carità, meglio nulla, molte volte fa anche in ritardo perché quando c'è buio non è che si scende giù e c'è nelle proprie vie. Poi c'ha paura, capito? Poi c'ha paura. Io sinceramente sono un fuoco in tasca, non me ne sbatte nulla proprio zero. Se mi tocchi ti tocco, poi quello che succede succede. Per carità, andate a rigirare, ogni giorno è 2-1-10, ho capito? Devi stare attento. Punto di randaggi, cazzo. Io per me ha evidenziato, non c'è il cappista, il corso, a destra, a sinistra, con le palle meccaniche, tutta a terra avrei buttato secondo me, tutta a terra, con loro dentro lì. Per carità, io già vi ho cuturati, è diverso. Io ho visto una cosa, stavano rapendo una donna, una ragazza, una volta, e si è messo questo qui che era un bel grosso come fisico, uno di Sassari che fu di un me, e l'ha bizzingato, ha chiesto la cottura giusta e ha chiamato i carabinieri, l'hanno arrestata, sono arrivati a 3 pattuglie dei carabinieri, l'avevano già caricata in macchina, stavo prendendo a forza questa ragazza, e meno male c'è stato questo ragazzo che l'ha difesa. Sì, perché a volte non hai capito, io non si deve neanche difesa, io mi faccio picchiare, ma se c'è come uno dentro la mia casa mia, non ve lo dentro, non devo fare niente, ma stiamo scherzando, tu entri, dopo quello che succede, succede, noi polizia lo leggiamo, ascolta, anche da poco hanno aperto una casa a fianco a noi, no? qui in campagna, sono arrivati i carabinieri, poi io sono arrivati anche a casa perché hanno controllato le telecamere, e poco poi mi ha detto, guardate, ma fate una cosa, è una cosa brutta, che non è una cosa che non posso dire io, quando lo beccate, pensate a morte e lo lasciate in culetta, e poi chiamate a noi, e ve ne andate, ma non c'è nulla da fare, voi lo pensate, andate in terra. Lo sai che sono i nigeriani, perché i senegalesi sono bravi, io i senegalesi non gli dico nulla perché si guadagnano il pane, vendono con le 4 fesserie che c'hanno, diciamo con la bigiotteria, con il giacendito, con la roba lì, però si guadagnano il pane, non rompono le scatole a nessuno, non chiedono soldi a nessuno e sono persone tranquille. I nigeriani hanno prostituzione, droga, sono rissosi perché sono larissi, brutti, sono di ghisciarissi. Una randaggia, una razza randaggia, l'avevano ammazzato di tutto, l'hanno preso, e il verme ne ha messo in gola, perché non è vero qui a Cersuso, per carità. Proprio ti provocano, non hai capito che... si beccano, se tu le guardi, si beccano. Sono cattivi, invece quello là, neanche da poco, un amico l'ha preso a lavorare, quello che sei tu, una trattoria, bello pulito, ordinato, educato, a prenotarsi, ti saluta, anche pulito, anche in cucina mi ha detto questo qua, oltre un ragazzo, e sta lavorando, non mette a lavorare, ha fatto come il contratto, non sai se per lavorare, non è tutto in regola, e sta bene, ma lì da razza è una razza randaggia, proprio, sono proprio nel cervello, nel sangue ce l'hanno, sono cattivi. Vediamo se Tonino ha terminato, Tonino, negativo, avanti già. Guarda, fuori del negozio c'era uno che si chiamava Omar, siamo diventati anche amici, ci siamo scambiati anche il numero di telefono, ci sentivamo tramite WhatsApp e tutto, con una persona tranquillissima, lui alla sua ora si metteva a cantare, ci siamo andati a cantare, no, pregando Gianni, pregando. Guarda, dove lavoravo io prima, ci manco già quasi più di 20 anni, io lavoravo in negozio di ferramenta, e c'era una ragazza che si metteva fuori a vendere un po' di tutto, là, il principale proprio la trattava come una figlia, Gianina. E il marito era orafo qua a Sassari, orafo, era molto bravo, capito? Orafo. C'è stato qualcuno, sono io, se Torino non stava entrando, avanti che vuole entrare, non mi sono portato, capito? Era orafo, molto bravo, lei aveva una gentilezza pulita. una bravissima ragazza, poi sapeva una bella, c'è un bel viso anche, capito? Lei si curasse un randaggio, come tu mi dici, c'è una ragazza randaggia, proprio cattiva l'anima. Avanti, avessi ascolto, avanti, bombolo, me ne sono accorto, Santiago 5, la manutenzione, Santiago 4, comunque ultima, va bene. Invece a tu, gli altri giorni non ti senti.